non sei andata via, non sei andata via. Non è colpa mia che non va via. Cancellare niente, tutto viene registrato. Ritrovi sempre tutto, tutto. Così ora tu non sei più mia. È finita, sì, e sei andata via. E non c'è niente da capire, e non c'è niente da spiegare. Perché l'amore non ha parole, e poi ti toglie anche la voce. Ma le storie d'amore no, non finiscono mai. Le storie d'amore no, non finiscono mai. Finisce, sì, finisce, sì, va via. L'amore è forse solo una bugia. La più grande, la più vera che ci sia. Amore mio, che non ho amato mai. Non smetterò di amarti mai. Non smetterò di perderti, di cercarti all'improvviso, di incontrarti nel mio passato, di difenderti da me. Le storie d'amore